Il gastronauta di Davide Paolini. Sparisce uno dei simboli dell'Italia di provincia, quei piccoli negozi dove si trovavano le specialità del posto e dove sempre di più, diciamo che i prodotti tipici, quei prodotti di nicchia che sono un po' il vanto dell'Italia, hanno trovato la loro vetrina ideale. Bene, questo è l'interrogativo che ci poniamo oggi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E io vi do subito il numero per poter intervenire proprio su questo argomento, numero verde 800 24 0024, messaggi sms 349 238 6666. Io spero che magari intervengano tanti produttori e tanti piccoli negozianti a discutere di questo argomento. Ma cominciamo con a parlare appunto di questa situazione che si va sempre più creando. Sempre di più si leggono che chiudono i piccoli negozi. Allora, Lino Stoppani è presidente nazionale della FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi. Buongiorno Stoppani. Buongiorno Davide, a lei e ai suoi radioascoltatori. Lei è stato rieletto pochi giorni fa, quindi congratulazioni. Volevo chiederle, Lino, se voi avete dei dati su questo, su diciamo la diminuzione dei piccoli negozi oppure semplicemente nella fantasia di noi giornalisti. No, questo è certamente una tendenza purtroppo negativa. Il 2009 tra l'altro ha aggravato quello che è il fenomeno, ma dietro quella che è la sparizione dei negozi, secondo me ci sono due mezze verità e una verità ancora più vera. Le mezze verità sono collegate al ruolo della grande distribuzione, che ha certamente azzerato il dettaglio alimentare, l'utilizzeria, i fioristi e molti artigiani del cibo, giocando sul prezzo, sugli orari, sulle comodità di accesso, sull'assortimento. L'altra mezza verità sono le politiche forse di gestione del territorio da parte dei comuni, che hanno portato a una desertificazione dei centri storici con gli interventi di pedonalizzazione, di ZTL, dei vincoli sul carico e scarico e altre cose. E dall'altra parte un'aggressione del territorio fatta dai grandi centri commerciali che hanno deviato flussi di clientela. Le vere verità secondo me però sono due. La prima è collegata ad consumatore che non sa più fare la spesa, basti pensare alla carne, dove il filetto, il rollo e le parti nobili sono le uniche acquistate, il ruolo della donna, un problema di tempo, ma il problema più grave a mio avviso è la mancanza di professionalità dei nostri operatori. Abbiamo perso i mestieri, quelli di macellai, di salumieri, camerieri, droghieri, cuochi. Certamente la mia generazione non è stata fatta di bravi allenatori, perché abbiamo insegnato i nostri giovani a cercare il posto di lavoro e non il lavoro. Beh, invece i piccoli negozi si fondavano essenzialmente su tre grandi elementi. Primo, la capacità professionale e la qualità del servizio che evidentemente legava il cliente. Secondo, il rapporto di fiducia che si sviluppa, ripeto, sulla qualità, sulla padronanza, sulla professionalità in generale. E il terzo è l'ubicazione e l'avviamento di posizione. Nel venire meno questi tre elementi, è chiaro, emergono i problemi e da qui il facile... Bene, Lino, lei ci ha dato un quadro sul quale discutere per tutta la giornata. Innanzitutto avremo pugliese della grande distribuzione della Conad, avremo un rappresentante di gas per il consumatore, quindi piano piano discuteremo tutti gli argomenti che lei ora diciamo ha buttato proprio sul tavolo. Sentiamo innanzitutto subito una radioascoltatrice, Marilena dalla provincia di Torino. Buongiorno Marilena. Buongiorno a lei. Io semplicemente le volevo segnalare, a proposito di genuinità e di cose che si stanno perdendo, di cose di buon gusto, i torcettini di Aglie Canavese. E questo dolce è un torcetto tutto fatto a mano con prodotti molto genuini. Lo produce un negozio piccolo, quindi, che ancora resiste. Lo produce un negozietto piccolo. Bene. È una panetteria, pasticceria. Bene. Secondo l'antica ricetta di questo pasticcere Pana, che era al servizio di Casa Savoia. Bene, grazie di questa segnalazione. È giusto che vengano segnalati molti negozi che resistono, come questo che ci ha segnalato Marilena dalla provincia di Torino. Bene, sentiamo, abbiamo un rappresentante dei piccoli negozi, Franco De Pieri del negozio Latte E di Treviso. De Pieri, si resiste? Eccomi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Io sono un superstite, ci sono ancora, sono presente, cerco di dire la mia, chiaramente con un'aggressività particolare, nel senso che purtroppo bisogna oggi agire con metodi molto incisivi, selezionando i prodotti, però siamo ancora qui a raccontarcela. un aspetto veramente importante citato da Stoppani prima, per me è la trasmissione del sapere, cioè dobbiamo effettivamente ritornare a trasmettere il sapere attraverso una sorta di botteghe scuola che riprendano in esame tutto quello che di fatto insomma è stato trascurato, perché altrimenti quando si disperde il seme non c'è più possibilità di venirne fuori. E certamente, ripeto, attraverso una selezione continua, attraverso una valorizzazione continua di tutta la realtà italiana, noi siamo qua tra mille difficoltà, però effettivamente l'orizzonte non è che sia molto limpido. Compro frutta e verdura in un negozio gestito da due anziane signore che vogliono chiudere. Nessun negozio, neppure il biologico, al biologico trovo il loro livello di qualità. Tra l'altro prezzi molto corretti. Speriamo, cara Lucia, che ci mandi questo SMS, che invece queste signore resistano. Sentiamo Francesco da Prato, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, sono Francesco Mazzeo, segretario dei Socialisti per la Libertà. Sono molto, diciamo, appassionato a questo settore della piccola impresa. Parlando di piccolo negozio, si potrebbe, come dire, sviluppare proprio un aspetto anche di occupazione, oltre che di prodotti sani, collegando alla nostra grande agricoltura, diciamo, a quello che può essere il territorio. Si potrebbe fare veramente tantissimo, dando lavoro ai giovani e dando dei prodotti eccezionali, genuini alle persone. Chiaramente per far questo c'è bisogno anche di un aiuto istituzionale, perché sennò altrimenti anche le nostre città, le nostre periferie si svuotano, diventeranno un deserto, diventeranno un qualcosa che veramente fa impressione. Ecco, prendere in considerazione da parte della politica, da parte di chi può dare una mano e far sì che non chiudano queste botteghe, perché sennò altrimenti ci ritroveremo ad acquistare dei prodotti anche di dubbia provenienza. Bene. Insomma, ritengo che questo possa essere un bene per l'Italia, per gli italiani e per tutti. Grazie Francesco, grazie. Il discorso del depauperamento dei centri con tutti i negozi di abbigliamento mi sembra che sia evidente. Bene, chiediamo a Enzo Rossi, che è produttore di pasta di Campofilone, i noti maccheroncini di Campofilone, personaggio che è sicuramente noto alle cronache per alcuni eventi di tempo fa, quando aumentò sulla sponte lo stipendio ai suoi dipendenti. Rossi, ecco, a lei voglio chiedere questo, ma un produttore di prodotti appunto di nicchia, di qualità, si trova in difficoltà dalla chiusura dei piccoli negozi, delle boutique del gusto, oppure ci sono già canali alternativi pronti a sostituire? Pronto? Rossi, è caduta la linea, bene. Sentiamo Antonio da Bari, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno. Buone cose. Mi dica, spenga la radio perché sentiamo il rimbombo, per cortesia. Sì, ecco. Mi dica Antonio. Diceva il mio professore di elettrochimica, di chimica, riguardo alla corrosione: vale più un'oncia di previsione che un quintale di rimedio. Cioè praticamente bisogna prevedere che certe cose non accadano. Ora bisogna andare al concetto di ciò che si vuole ottenere, e allora lottare per quello, perché se no altrimenti noi siamo sopraffatti dai caimani che... Arriviamo al dunque, Antonio, cosa vuol dire? Vuol dire i piccoli negozi? Il dunque è questo, che noi vogliamo mantenere certe cose, allora bisogna difenderle. Certo. Il lavoro praticamente, tutto il prodotto locale, se si scontra contro un mercato che non lo favorisce, è chiaro che poi quelli non hanno mezzi di sussistenza. Noi importiamo i prodotti agricoli dall'estero, beh, e il contadino che fa, il contadino italiano, che deve poi vivere in un contesto nel quale prevale la finanziarizzazione e non il prodotto reale. Bene. Quindi praticamente si va, c'è anche i politici e quindi l'informazione soprattutto protegga questo stato di cose, stabilendo: io voglio che lo Stato italiano sia fatto in questo modo, allora bisogna fare di tutto per mantenerlo d'accordo, in questo modo. D'accordo, bene, allora tutti richiamano la politica, le istituzioni, anche prima abbiamo sentito, secondo me gli aspetti sono vari, non solo di istituzioni. Comunque credo che abbiamo ritrovato Enzo Rossi. Rossi, non so se avevi sentito la mia domanda, no, forse no. Ciao perché... Davide, purtroppo no. Buongiorno. Allora, volevo chiederti, un'azienda come la tua, ti avevo già presentato prima quindi non ti ripresento, è un'azienda come la tua che diciamo ha come interlocutore diretto i piccoli negozi, quelle boutique del gusto. Oggi, di fronte alla grande chiusura, diciamo una chiusura generalizzata in Italia, perché ogni giorno si legge di queste chiusure dei piccoli, nei piccoli centri, ma anche in città, ci sono canali alternativi che trovano appunto i prodotti di nicchia? Sì, allora rispondo subito sì, perché da una parte dico anche purtroppo la grande distribuzione organizzata si è organizzata a copiare un pochettino i piccoli negozi che tenevano dentro delle eccellenze estremamente importanti come la mia, per esempio. E però ti dico, io ho circa 2000 clienti in Italia di piccoli negozi, qualche perdita c'è stata sicuramente. Chi non ha perso, il piccolo negozio non ha perso, è colui che ancora persegue sempre l'estrema qualità, anche perché oggi la qualità è sicuramente sinonimo di salute e la grande distribuzione ha copiato un pochettino. Quindi tu dici sicuramente, quindi non c'è, cioè, spariranno, ma c'è qualcuno che li sta sostituendo. Grazie Enzo di questa tua informazione. Sentiamo Fabrizio da Verona, buongiorno radioascoltatore. Pronto, buongiorno. Fabrizio? Dica Fabrizio. Senta, io sono un acerrimo nemico dei grossi distributori e dei grossi ipermercati, perché dovrebbero chiudere tutti, stanno distruggendo le piccole botteghe e un sacco di famiglie che potrebbero lavorare. I supermercati sfruttano la gente, le ragazze le fanno lavorare con dei tempi assurdi, e un supermercato non riesce a dare il lavoro di tante botteghe che potevano tenere avanti le famiglie. Dunque, secondo me, i supermercati e gli ipermercati dovrebbero chiudere tutti. Bene, grazie Fabrizio. Abbiamo con noi anche il presidente della Confartigianato, Giorgio Natalino Guerrini. Buongiorno Guerrini. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. A lei chiedo quello che in un certo senso ho chiesto prima a Rossi, cioè i produttori, gli artigiani del gusto, chiamiamoli così, visto diciamo la chiusura di molti piccoli negozi, si trovano in difficoltà nel trovare altri interlocutori? Ma guardi, innanzitutto mi preme dire che il settore alimentare in questo paese, nonostante un anno e più di crisi, sta tenendo, è uno dei pochi settori che tra il 2008 e il 2009 ha segnato il segno più sul numero di imprese. Quindi, nonostante le difficoltà, ancora in un paese come il nostro, che è caratterizzato da un settore alimentare che è un patrimonio culturale, ecco, non solo enogastronomico, ha dato una reazione positiva. Questo però non vuol dire che oggi il problema maggiore per chi produce nel settore alimentare e per chi produce prodotti di qualità è quello della distribuzione. Purtroppo, se guardiamo i dati non di breve periodo ma di lungo periodo, ci accorgiamo come l'entrata massiccia anche nelle piccole città, nei piccoli centri della grande distribuzione ha diminuito sensibilmente il numero degli esercizi. E guardi, è una grande distribuzione che poi con il passare del tempo è passata di mano, perché oggi tranne due catene che sono in mani italiane, in proprietà agli italiani, sì, certo, tutte le altre catene sono straniere. Bene. E è ben difficile in queste catene trovare non solo il prodotto di qualità italiano, ma spesso anche Bene. Solo il prodotto italiano. Poi abbiamo, come dicevo, un rappresentante della grande distribuzione e chiederemo anche a lui appunto questi appunti che sono stati fatti. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo Andrea da Genova, buongiorno Andrea. Buongiorno, salve, anch'io faccio parte di questo settore, cioè di questi gli ultimi dei moicani. Io volevo soltanto fare una disamina, visto che stiamo parlando a Radio 24 Ore. Il problema è che il sistema lo fa il mercato, cioè è inutile che ci facciamo delle illusioni sulle attività commerciali. Purtroppo, cioè, non nessuno prende un'attività sia commerciale, anche se è appassionato del gusto di questi prodotti qua, se poi alla fine non c'è cioè se il lavoro non è remunerativo. e anche i giovani da adesso, nessuno si impegna 12 ore al giorno in un'attività commerciale, se poi perde la domenica, perde le feste, hanno molti controlli da tutti gli enti, parlo dei NAS, igiene, agenzia dell'entrata, cioè siamo vessati non soltanto da un punto di vista lavorativo, ma anche burocratico. Certo. Cioè, le nostre aziende, quindi il mercato, succede così che un ragazzo, diciamo giovane, che deve intraprendere una carriera lavorativa, preferisce fare un tipo di carriera dove sì che magari potrà avere anche meno soddisfazione a livello ma personale, non remunerativo, però fa un livello di vita sicuramente migliore, cioè una vita meno sacrificata. Bene. Dove hai la mutua, invece qua se stai male la mattina con la febbre a 40 vai a andare a lavorare, cioè sono cose semplici però fanno veramente la selezione. Bene Andrea, abbiamo capito benissimo il riferimento alle nuove generazioni, sicuramente a quelli che stanno anche cercando lavoro, purtroppo non è facile perché questa è un'attività impropria, non è un'attività dove si viene assunti o d'altro, di solito è il singolo che crea il piccolo negozio e i dipendenti sono davvero pochi. Chiediamolo a Salvatore Di Gennaro, Salvatore De Gennaro, che è titolare della tradizione Vicoquense e di un altro negozio ad Anacapri. Allora chiedo, Salvatore, visto che tu hai duplicato i negozi, vuol dire che i negozietti di Boutique del Gusto possono funzionare molto bene se gestiti al meglio? Buongiorno intanto a Davide e a tutti i radioascoltatori. Direi proprio di sì, ma soprattutto in considerazione del fatto che mi trovo in una zona particolarmente evocata sia dal punto di vista ambientale e poi anche perché siamo riusciti a fare sistema e quindi nella costiera sulla quale ho le mie attività sono particolarmente accompagnato da ristoranti e da alberghi di grande qualità, quindi insieme abbiamo fatto un percorso che ci consente di aver creato qualcosa di importante, quindi attrae un po' i flussi turistici di gastronomi e quindi del cliente gourmet, che è quello lì che ci fa diciamo resistere, perché poi nella mia attività, stando a centro della costiera sorrentina, è quella anche di accompagnare un po' gli alberghi e i ristoranti, quindi mi dà l'opportunità, facendo un piccolo servizio a questi posti, di tenere il mio assortimento, perché contrariamente avrei grandi difficoltà a gestire una quantità un assortimento importante. E quindi questo diciamo è il mio motivo di resistere a livello abbastanza alto, però voglio dire dobbiamo anche fare un attimo una valutazione relativamente ai produttori, perché i produttori noi dobbiamo pretendere rigore dai produttori, ma i produttori, quelli di nicchia, devono in qualche modo anche supportarci, nel senso che se ci devono privilegiare devono evitare in qualche modo di servire anche la grande distribuzione, quindi noi dobbiamo specializzare sempre di più la nostra offerta e quindi trovare rigore in tutte le nostre offerte, evitando laddove è possibile che ci siano delle duplicazioni, cioè è inutile tenere i prodotti che stanno presenti in grande distribuzione, dobbiamo scegliere, cercare, insomma. Selezionare, scegliere. Solo questo è uno dei motivi che può farci resistere e mantenere la differenza. Beh. Poi, ripeto, mi sento fortunato, lo dico senza fuori dai denti, perché mi trovo in questa zona, che siamo meta di peregrinaggio di gastronomi, e quindi ho questa. Però la mia ambizione è quella di rapportarmi con i centri urbani un po' più grandi e iniziare in qualche modo a convincere anche il consumatore, il consumatore popolare, tra virgolette, a spendere due soldi in più, però mangiare e scegliere di qualità. Bene, abbiamo tantissimi radioascoltatori, Raffaele da Bari, Davide da Manto, a Dennis da Verona, non so se riuscirò a esaudire tutti, sentiamo comunque Raffaele da Bari, buongiorno Raffaele. Buongiorno dottore. Mi dica. Sente? Prego, prego, parli per cortesia. Io sono un artigiano, un panificatore, e qui per colpa della grande distribuzione che continua ad aprire come fondi, nel giro di 10 anni si sono aperti e si sono chiusi. Questi soldi, questi signori, da chi li hanno? Ci stanno distruggendo. Io ho investito, avevo 2 figli disoccupati, quindi mi sono venduto la casa, ho fatto 10 anni di mutuo per l'attività, ma questi ci stanno distruggendo. Cioè come fa questa... Continua ad aprirsi queste grandi distribuzioni, bisogna regolare, bisogna controllare questi soldi da chi li hanno. comuni, la provincia. Bene, io credo che di finanziamenti forse pubblici ne avranno ben pochi, ma sicuramente bisogna vedere caso per caso, e quindi non so come risponderle in proposito. Sentiamo, abbiamo con noi, diciamo, l'inventore di una nuova formula, di un nuovo canale appunto per i prodotti artigianali, che è Oscar Farinetti, fondatore di Italy. Buongiorno Farinetti. Buongiorno Paolini. Senta Farinetti, qui si parla appunto di sparizione di piccoli centri, si parla sempre di più di cannibalizzazione della grande distribuzione, queste sono parole del presidente della FIPE. Lei cosa ne pensa? Quale può essere il futuro per i prodotti artigianali? Quale forma di distribuzione? Dunque, intanto il presidente della FIPE ha detto anche un'altra cosa molto intelligente, e cioè che la colpa principale è della scarsa professionalità e della mancanza di creatività. Ha notato Paolini che si dà sempre la colpa agli altri? Sì, certo, questo è vero. La grande distribuzione, la colpa dello scenario, la colpa, i finanziamenti, come se fossero finanziati. Guardi, il fatto è che bisogna tirare fuori le palle, mettere professionalità. Oggi c'è una chance enorme per i piccoli negozi di prossimità, enorme, perché la grande distribuzione è in crisi, gli ipermercati, in questo molti ascoltatori hanno ragione, sono entrati in crisi perché il loro strumento di persuasione occulta sta incominciando a essere compreso dai consumatori che ci vanno di meno, sono disposti ad andare in piccoli negozi di prossimità, ma lì vogliono grande professionalità. Se questi vendono soltanto prodotti confezionati non ce la faranno mai. Vicino ai prodotti confezionati bisogna essere specialisti sui freschi, bisogna trattare una carne di grande qualità, essere capaci a vendere i salumi, i formaggi, essere capaci a vendere l'ortofrutta. Io conosco un sacco di piccoli negozi che fanno ottimi affari, vivono bene e sono felici, fanno l'insalata russa più buona del mondo, fanno il vitello tonnato più buono del mondo, riescono a trovare la frutta e verdura di eccellenza e riescono anche a trovarla a prezzi buoni. L'altra parola da abolire, mi scusi Paolini, ma è nicchia, una parola terrificante. I prodotti devono essere artigianali, di alta qualità, ma popolari. Suggerisco a queste persone che hanno voglia di tirar fuori coraggio, di esprimere creatività, di mettere anche 2 o 3 tavolini dentro il loro negozio, di dare qualcosa da mangiare, di mettere qualche libro, di spiegare bene i prodotti. Hanno in questo momento una chance enorme, la grande distribuzione è abbastanza in difficoltà. Bisogna però studiare, bisogna studiare i prodotti, bisogna essere preparati, bisogna fare sacrifici. Viviamo in un momento storico in cui avere creatività, avere coraggio, avere professionalità è raro, e però quelli che ce l'hanno vincono. Farinetti, la parola nicchia deve invece venire usata proprio in maniera appropriata su quei prodotti che non hanno futuro, cioè su quelli che è rimasto un unico produttore, il quale quando sparisce l'ultimo produttore oppure quando non c'è più materia prima in quel luogo non si può più produrre. Italy cerchiamo di fare la nostra parte in questo senso, andiamo a scovarli questi piccoli produttori, cerchiamo di iniezioni di coraggio, di creatività, soprattutto nel settore dei contadini. Adesso sento delle puree di frutta fatte con frutta ad agricoltura integrata, che non ha diserbanti, non ha concimi chimici, ha residuo zero. Gli paghiamo la frutta il doppio rispetto al prezzo di mercato e facciamo direttamente noi queste puree di frutta. Bene. Siamo sensibilissimi a questo discorso, per cui lo dico pubblicamente alla sua radio, qualsiasi piccolo produttore, che sia contadino, che sia allevatore, che sia affinatore, che abbia voglia di esprimere la sua creatività, ci contatti. Bene, guardi, abbiamo con noi ancora in linea il presidente della Confartigianato Guerrini. Guerrini, bisogna accogliere questo appello. Sì, ma guardi, l'appello credo che sia colto da tempo, nel senso che oggi i produttori cercano di percorrere, giustamente, perché non si può rincorrere il prodotto sul prezzo, ma cercano di percorrere la strada della qualità. Sarebbe necessaria anche una legislazione che aiuta questo, che valorizza le produzioni territoriali, che dà alle denominazioni territoriali un riconoscimento tangibile per permettere al consumatore di riconoscere facilmente i prodotti fatti e realizzati nel suo territorio rispetto ad altri prodotti che spesso sono contraffatti. Guardi Guerrini, lei comunque ha bisogno di fare insieme tutti uno sforzo, chi produce, chi distribuisce, ma anche le amministrazioni pubbliche, che devono fare delle scelte politiche e devono dare delle indicazioni precise. Mi sembra che fino ad oggi purtroppo si è predicato bene, ma si è razzolato molto male. Guardi, lei ha chiamato quasi non sapendolo un personaggio che contro le contraffazioni sta combattendo da una vita, ed è Fausto Guadagni, produttore del Lardo di Colognata, forse uno dei pochi eroi di questo prodotto. Buongiorno Fausto. Buongiorno Davide. Allora, tu come fai a distribuire? Hai difficoltà a distribuire il tuo prodotto? Ma la distribuzione è un problema, perché diciamo che sono i costi, cioè nel senso che distribuire professionalmente con trasporti refrigerati e quant'altro, c'è una quota da pagare da 0 a 100. E appunto, stando sul discorso della tua trasmissione, dove i negozi, i piccoli negozi sono diciamo in chiusura, noi abbiamo rilevato più che altro una frammentazione delle consegne, sicché diciamo anche un piccolo negozio che prende un 10-15 kg di lardo praticamente ha un costo aggiuntivo che magari la grande distribuzione non può avere, perché gli acquisti sono di natura diversa. Ma proprio anche fare riferimento al signore lì della Confartigianato, non so come. Sì, Guerrini, dottor Guerrini. Sì. Gli volevo dire che nella finanziaria del 2009 ci hanno aggiunto una super tassa di quasi 500 euro sulle produzioni per i controlli veterinari, che va da 0 a 2000 quintali, penso. Sicché diciamo una cifra che per un salumificio del Triangolo d'Oro della Padania può essere irrisoria, mentre una cifra per produzioni dislocate e che praticamente di una tonnellata di lardo prodotto, diciamo, si sono trovati questo balzello ora fresco nel 2009, ecco. Bene, sentiamo, guarda, abbiamo un piccolo negozietto, sentiamo cosa ne pensa Davide della provincia di Mantova. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Io sono forse uno dei pochi commercianti, anch'io superstite, come ha detto un... Pronto? È caduta la linea. Sentiamo Dennis da Verona. Buongiorno Dennis. Sì, buongiorno, salve. Io ho una realtà un po' diversa. Io sono un piccolo ingrosso praticamente, a conduzione familiare. La cosa che diventa spaventosa qui da noi su Verona è che le grosse aziende, tipo le grandi catene anche estere, lavorano in una maniera. Noi andiamo peggio con le nostre catene italiane, dove molto spesso trovo dei prodotti che io, acquistandoli a motrici, cioè apparecchi bancali, pago più cara di quello che trovo allo scaffale al pubblico praticamente. E questa è una cosa assurda e si trova molto spesso su Verona, questa cosa qua. Lei è un grosso alimentare, ha detto? Un grosso, trattiamo un po' di tutto, facciamo forniture per sagre, manifestazioni. Il problema grosso è che i miei clienti che pensano di venire in un ingrosso, in teoria pensano di pagare il prodotto meno di della grande distribuzione, perché dico, comprano all'ingrosso. Il problema grosso qui da noi è che molto spesso il prezzo al dettaglio è inferiore del prezzo all'ingrosso praticamente, ed è una cosa assurda. Un'altra cosa, e lì entra in gioco lo Stato eccetera eccetera, cioè in Italia si tratta il piccolo come la grande distribuzione. Il piccolo negoziante, che magari a condizione familiare, deve fare tra corsi una cosa, l'altra, quest'altra, deve fare mille cose come se fosse una grande distribuzione, con dei costi che sono inimmaginabili. Bene, Dennis, la devo interrompere, abbiamo capito il suo punto, che è abbastanza emblematico, mi sembra, però anche sempre quello di chiamare lo Stato, le amministrazioni pubbliche, secondo me in una economia di mercato e con una realtà in cui si parla appunto di produzione e di libero commercio è un po' troppo. Ma abbiamo ripescato Davide. Buongiorno Davide. Buongiorno, scusate, ma non è colpa mia, è caduta la linea. Veloce Davide. Buongiorno a tutti, sono un piccolo commerciante, un negozio di specialità con Enoteca insieme a mia moglie. Sono uno dei pochi forse che ringrazierà da sempre la grande distribuzione, invece, perché ha sempre creato, a mio avviso, la possibilità di un termine di paragone nei confronti di chi come noi cerca e ricerca la qualità da dare ai nostri clienti. Proprio il cliente, secondo me, è invece il protagonista di tutta la nostra, chiamiamola, chiacchierata o trasmissione. A lui mi rivolgo con questa battuta: se abbiamo mal di denti ci rechiamo da un buon dentista, non da chi fa altri mestieri. Quindi in questo momento particolare di mercato io posso sicuramente sostenere il fatto che la qualità in questo momento paga. Fosse il giusto. Sentiamo, abbiamo ancora un radioascoltatore, Carlo da Monza, buongiorno. Buongiorno Parvini. Mi dica. Buona giornata a tutti. Sì. Beh, io vi chiamo perché ho sentito vari commenti sui piccoli negozi, sì. Sia col signore che voleva i finanziamenti, che per me si aspetta soldi dalle mie tasse può chiudere allegramente, sia circa ciò che si parla della grande distribuzione. È chiaro che un piccolo negozio non può avere la forza di comprare come la grande distribuzione, quindi secondo me il trucco, tra virgolette, va sul valore aggiunto. Io l'ho visto in molti negozi all'estero, alcuni qua da noi, ad esempio a Savona, magari faccio pubblicità, c'è questa pescheria che si chiama Natalina, mi sembra, che oltre al pesce però le vende anche il pesce già pronto, le vende la boita già preparata, le vende gli anellini già fritti, mentre invece quello che ho visto all'estero, in particolare un posto bello a Losanna, che ha un macellaio di giorno, ma la sera ti cucina la carne, piuttosto che nel Baden-Württemberg, in Germania. Insomma, Carlo, Carlo, lei vuol dire che bisogna che si adeguino e che quindi, oltre a dare il prodotto, alimentino anche il negozio con altre forme, così? Esatto, cioè se noi aggiungono valore al prodotto, certo. Il prodotto da solo lo posso comprare ovunque. Certo, valore aggiunto. Da un verduraio e posso sedermi e mangiare l'infalata. Certo. Lei capisce che dà anche una certa, non so come dire, le dà anche un certo piacere. Bene. Bene, grazie di questa indicazione che sicuramente molti lo stanno già facendo. Bene, abbiamo parlato moltissimo di grande distribuzione. Allora io avevo un rappresentante importante della grande distribuzione che è il direttore generale della Conad, Francesco Pugliese. Buongiorno Pugliese. Buongiorno a lei Davide e a tutti gli ascoltatori. Lei ha sentito un po' la trasmissione? Sì, l'ho ascoltata con grande interesse. Si parla appunto che accusa la grande distribuzione di azzerare i piccoli negozi. Guardi, devo dire che non mi sento molto fra quelli che hanno azzerato. Noi siamo una cooperativa di dettaglianti e siamo una cooperativa di 2800 soci che sono, tra l'altro, 1400 di questi nostri punti di vendita sono inferiori ai 400 metri quadri. Quindi in realtà siamo una grande distribuzione, ma in realtà lavoriamo per la valorizzazione dei piccoli. E dei piccoli non solo come negozi, ma anche come prodotti. Nell'ambito della nostra offerta noi abbiamo una linea di prodotto a marchio nostra, si chiama Sapori e Dintorni, che racchiude circa 200 referenze, tutte rigorosamente IGP e DOP e tutte di produttori artigianali, fra gli altri ho sentito che c'era Rossi, che con i suoi maccheroni di Campofilone è uno dei nostri fornitori in questa linea, che vendiamo non solo in Italia ma anche all'estero. Il problema esiste, quello di mantenere viva il piccolo negozio, ma credo che ci sia anche da far quadrare quelli che sono conti e prezzi, per arrivare con queste specialità dei prezzi che devono essere competitivi sul mercato, altrimenti la nicchia diventa una nicchia, troppo cara e poco accessibile. E c'è un patrimonio di cultura in Italia che è enorme di prodotti e di produttori, e bisogna aiutarli per farli arrivare ad un parco di consumatori che è più largo, che non è solo quello della zona di provenienza, e in questo la grande distribuzione tutta sta dando il suo contributo. Le dico di più, noi nel mese di aprile, proprio in ragione di questa desertificazione a cui stiamo assistendo nei piccoli centri urbani, partiremo con un progetto che per quanto riguarda noi è innovativo, e in due punti di vendita, uno tra l'altro su Ponte Vecchio a Firenze, abbiamo recuperato dei piccoli punti vendita per cercare di, con un'insegna che sarà appunto Sapore Dintorni, dove venderemo tutte specialità e dove faremo Bene. Anche somministrazione. Bene, rimanga con noi Pugliese, vediamo se abbiamo ancora tempo. Beh, abbiamo un referente dei gas di Voghera, Raffaele Tesoro. Buongiorno Tesoro. Sì, buongiorno a lei Davide Paolini e a tutti gli ascoltatori e un saluto ovviamente agli amici gasisti. Voi siete un nuovo canale di linfa per gli artigiani, è così? Sì, oddio, un nuovo canale, veramente il primo gas è stato costituito nel lontano 94 a Fidenza. Successivamente i numeri si sono elevati, ovviamente i gruppi di acquisto si sono espansi sul territorio, fino adesso un censimento di circa 500-600 gruppi d'acquisto su tutto il territorio ovviamente. Voi dialogate direttamente con i piccoli produttori? Sì, esattamente, esattamente. Diciamo che il gruppo d'acquisto generalmente viene costituito quasi sempre da un gruppo d'amici che prediligono il consumo critico, cioè critico per la forma, il modello di consumo rispetto all'economia globale, diciamo, no? E ovviamente contattiamo preferibilmente produttori a chilometro zero, scegliendo prodotti biologici, ma non solo, perché ovviamente i criteri di scelta sono anche la solidarietà innanzitutto tra i membri del gruppo, oltre che verso i produttori, il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, ma anche il sostegno ai popoli del sud del mondo. Quindi è un gruppo di persone che decide appunto di acquistare insieme, consapevolmente appunto rispetto a quello che le ho detto prima, prodotti di uso comune in quantità da distribuire poi tra loro, diciamo. Bene, grazie tesoro. Abbiamo con noi un altro piccolo produttore, Giuseppe Ursini. Ursini produce olio e produce tutta una serie di prodotti, diciamo, da antipasto, da condimento ed altro. E quindi volevo chiedere, Ursini, ho pochissimo tempo, però volevo sapere, ti trovi in difficoltà sulla distribuzione della sparizione dei piccoli negozi? Buongiorno Davide. Ma difficoltà, diciamo che c'è un ricambio anche di carattere generazionale, perché la cosiddetta signora Maria nel tempo non si è probabilmente sincronizzata e questa conversione che tanti anche predicano sta avvenendo gradualmente. Insomma, io grandi difficoltà onestamente non ne trovo. È ovvio, insomma, che sarebbe auspicabile che questi negozi si sviluppassero ulteriormente, ma qui cavalco un po' quello che ha detto anche Oscar Farinetti, cioè c'è necessità veramente di studiare, di professionalizzarsi un po' di più, perché la maggior parte delle volte trovo anche davanti a me dei professionisti che si definiscono tali, ma in realtà tali non sono. Quindi tu dici nei negozi. Velocissimamente, Giorgio da Bergamo, un radioascoltatore, perché vedo che fa una ricerca appunto su questo. 30 secondi, Giorgio. Sì, buongiorno, molto velocemente. In America si è un'inversione di tendenza, per cui i centri commerciali grandi, probabilmente alcuni si stanno facendo concorrenza tra di loro e chiuderanno. Bisogna tenere duro in questo momento, probabilmente per i piccoli, con politiche del commercio, con stretto del commercio nei centri storici, eccetera, eccetera, con un'inversione di tendenza delle abitudini delle persone, del consumatore, che in realtà con il gas che hanno detto prima c'è già stato, e perché il grande centro commerciale ha portato un appiattimento degli salari, un appiattimento dei consumi e delle abitudini. Quando ci sarà questa inversione di tendenza, probabilmente anche i piccoli riusciranno a gestirsi. Bene, grazie Giorgio, con questa chiusura interessante, con questo così spunto, diciamo, di ricerca. Bene, chiudiamo questa trasmissione. Abbiamo visto grande partecipazione. Io mi spiace, non ho potuto leggere i tantissimi SMS che sono arrivati, perché le telefonate e gli interventi erano tanti. Io vi auguro buon weekend a tutti, vi do appuntamento domani alle 12.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto dal gastronauta.